un luogo, una storia. Di Daniele Biacchessi. Buongiorno, sono Dio e vorrei lanciare un appello per tutta l'umanità. Signori e signore, trovatevi una passione e andategli appresso fino in fondo. Vabbè, non so credibile come Dio, con sta accento meridionale, che non si capisce nemmeno di che meridione è. E allora lo dico, io sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste. Esiste. È un po' come il concetto di Dio. Ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata. L'ho vista. Era notte, diciamo che l'ho intravista. Una grande Basilicata, una regione che sotto l'aspetto della depressione e della disoccupazione giovanile non ha niente da invidiare a Puglia, Sicilia, Campania e Calabria. È solo che non c'è la mafia, ma dateci la nostra fetta di mafia. Agriturismi, prostituzione, al contrabbasso Franco Cardillo, alla chitarra Salvatore Chiarelli, al fodero della chitarra eccezionalmente con noi Rocco Santamaria. Da Maratea alla strada provinciale Petrecchina, alla diga di Pertusillo, fino a Lauria, Latronico, Scanzano Ionico. Il viaggio di Basilicata Coast to Coast del regista Rocco Papaleo è diventato ormai un cult movie. È il 2010, nelle sale cinematografiche italiane usciva questo film che in breve tempo conquista il pubblico grazie al passaparola e mostra con una certa lieve poesia un angolo di Italia sconosciuto a molti, la Basilicata. Da quel momento il territorio lucano attira l'interesse di viaggiatori italiani e stranieri e si moltiplicano le offerte turistiche con proposte di itinerari ideati proprio sulle tracce del percorso compiuto dai protagonisti della pellicola. Alessandro Gassman, Max Gazzè, Giovanna Mezzogiorno. È un viaggio nelle tradizioni popolari rimaste incontaminate. La prima tappa è Maratea. Maratea è la cosiddetta perla della Basilicata. È una cittadina che si affaccia sul Mar Tirreno, nella parte della regione a nord della Calabria. Affascinante con i suoi vicoletti, il suo centro storico e le sue 44 chiese possiede 32 chilometri di costa. Dal belvedere, situato sul Monte San Biagio in un particolare contesto naturalistico fra montagna e mare, si possono ammirare acque cristalline a perdita d'occhio. Il punto d'osservazione privilegiato è la statua del Cristo Redentore, seconda solo a quella di Rio de Janeiro. Da Maratea si cammina e il nostro viaggio prosegue fino a Trecchina. Trecchina è un piccolo paese a 10 chilometri da Maratea. Viuzze strette, i ruderi del castello cinquecentesco e la centrale Piazza del Popolo. A Trecchina sono famose alcune specialità gastronomiche, il pane, i dolci di pasta di noci, il gelato alla castagna, capaci di rifocillare viaggiatori stanchi e bisognosi di ristoro. Guardate che non bastano quattro braccia e due incapaci per montare rapidamente una tenda, ma solo Rocco Santamaria può montare una tenda come modestamente sa fare Rocco Santamaria. Che è qua? Salve. Buongiorno. Che fate? Niente, ci siamo così, però domani mattina partiamo. E dove andate? A Scanzano Ionico. Scanzano Ionico? Cioè come punto d'arrivo, un po' alla volta. Favorite i documenti. Scaldaferri, per cortesia, tutti. Tutti? Ecco qua. Rocco Santa Maria. Forse non mi riconosce perché la televisione ingrassa un po', insomma. La fa. Anche loro due. L'amico dei famosi. L'hanno visto l'amico dei... Dai, va, è la trasmissione, quella con la Carrà. Forse anche gli occhiali, un po'. Il divanista. Il divano degli ospiti. Lui arrivava e portava il divano degli ospiti solo lui sulle spalle. Che aveva fatto? Rocco. Vabbè, insomma, vabbè, se non lo riconosce... Che faceva? Un'altra cosa che avevi fatto. Tropea Limongi. Voi siete la figlia dell'onorevole Limongi. Certo che deve essere un pezzo grosso questo padre di Tropea. Se ne stavamo ancora un poco ci davano la scorta. L'ho trovato, eh. Allora, questo si chiama Vincenzo Limongi, ex presidente Regione Campania, ora sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture. Chiamato un amico che ha cercato su internet. Vabbè, ma avevamo detto... Avevamo detto soltanto per l'emergenza, ma se permetti io voglio sapere con chi sto viaggiando. Posso? Mi è concesso? E quella con un padre così lavora per un giornaletto sfigato di preti. Si vede che è talmente pippa che anche quei santi in paradiso... C'è anche gente che non si fa raccomandare perché c'ha un'etica. E allora una pippa con un'etica, ma sempre pippa è. Perché scusami un attimo, a 30 anni, pure con le gambe tue, non dico a Repubblica, ma vogliamo rimanere in un ambito dei preti, dico, a Famiglia Cristiana ci arrivi, no? Perché tu al posto suo ti facevi raccomandare. Eh certo. Guarda che problema, sono i raccomandati incapaci. Perché se uno c'ha un po' di talento e c'ha pure una spinterella, che problema c'è? Datemelo a me l'onorevole Limongi, perché Rocco Santa Maria con l'onorevole Limongi è come pane frittato e zietta bella, non si batte. Però se a Rocco Santa Maria gli levi l'onorevole Limongi, rimane Rocco Santa Maria. Se a Maratea, come si chiama? Tropea. Tropea Limongi, gli levi l'onorevole Limongi e non rimane in cazzo. Da Trecchina raggiungiamo Tramutola e Viggiano. Il nome di questa città significa ricca d'acqua, in omaggio al terreno su cui sorge, che nell'antichità era paludoso. La particolarità di Viggiano è la Madonna Nera, portata in processione verso il santuario della Madonna Nera del Sacro Monte in maggio e riportata in settembre nel centro del paese. Cominciamo. Questa sera ho l'onore di declamarvi alcuni versi scritti da un mio carissimo amico e quindi chiederò ai ragazzi di sostenermi con un adeguato accompagnamento. Il titolo è Alba / Tramonto. È un'alba o un tramonto se ti tengo la mano sulla fronte mentre vomiti? È un tramonto o un'alba se dopo una giornata scialba propongo un silenzio irrisolto? O è insieme alba e tramonto l'eterno confronto tra il presente e il possibile, tra il sereno e il vivibile, tra il crescere un orto e l'assaporare veloce, tra l'attesa e il precoce, tra l'ascensore e il deltaplano? Ma tra l'alba e il tramonto, oggi pomeriggio, scopriamo. Sì! Da Tramutola andiamo verso il lago del Pietrusillo. Si tratta di un lago artificiale costruito tra il 1957 e il 62. Il paesaggio è suggestivo e negli anni la presenza del lago e della sua diga, nominata nel film, ha contribuito alla nascita di un particolare ricco ecosistema protetto dal WWF. Thank you. Grazie. Buongiorno, signorina Tropea. Buongiorno, Carmine. Mia sorella si è premurata di farle avere il bagaglio. E con l'occasione volevo anche scusarmi per ieri. A casa ho trovato una tenda che io non uso più. Ho pensato che magari a lei potesse servire. Grazie. Non trova che questa diga del Pertusillo offre squarci affascinanti e discreti? Scorci affascinanti e discreti. Scorcio squarcia, la stessa cosa. Effettivamente è un posto bellissimo. Vuole che li lasciamo qui oppure li portiamo all'accampamento? Se non le arrega disturbo e la vuole portare all'accampamento, la ringrazio. No, no, nessun disturbo, anzi. Con l'occasione saluto anche i suoi collaboratori. Buona giornata, allora. Buona giornata. Nanzi Cristiano non me la corregge, capito? Squarci, faccio in mente una cosa negativa. Lo squarci in capo tu facessi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. I bagagli della signorina Tropea. Come procede l'escursione? Tutto bene. Possiamo offrire qualche cosa? Come se avessimo accettato. Beh, arrivederci. Arrivederci. Hasta la victoria, Carmine! Vaffanculo, drogato. Non battaglia la capa perché ho promesso a mia sorella che oggi sarei stata educata e gentile. Ma non tirate la corda. La tirata. Urrà! Ma che cazzo c'è? Lauria è un altro luogo che la combriccola di Basilicata Coast to Coast incontra sul suo cammino. La cittadina è divisa in due rioni, caratterizzati da un'architettura particolare con case aggrappate alle montagne. Lauria è un ottimo punto di partenza per un'escursione verso il Monte Sirino e il Monte Papa. Da Lauria a Castelluccio Inferiore il passo è breve, si entra in uno dei parchi più belli d'Italia. Situato nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, Castelluccio possiede un'atmosfera medioevale. Il Parco Nazionale del Pollino, con le sue bellezze all'insegna della biodiversità florofaunistica, è certamente fra i più visti dagli amanti della natura. Lo scenario cambia e si inizia a camminare proprio in mezzo ai calanchi. Il comune di Aliano sorge sui calanchi. Si tratta di elementi rocciosi la cui erosione è stata innescata dall'azione combinata del sole e dell'acqua piovana. Carlo Levi trascorse qui il confino e proprio ad Aliano ambientò il romanzo Cristo si è fermato a Eboli. Non c'è vino e non c'è liquore, e non si fa mattina e non si fanno cori. Sono sempre i calanchi a concederci la nuova prospettiva del nostro straordinario cammino. Di questa libertà sai quanto me ne fotto. Abbandonato in seguito a una frana, Craco è oggi un paese fantasma altamente suggestivo. Non c'è novità. Visitarlo all'interno non è possibile, in quanto vige il divieto assoluto di ingresso per la pericolosità delle case diroccate. Tuttavia, pur da lontano, il paesaggio vanta una bellezza scenografica mozzafiato, soprattutto perché circondato dai calanchi. E c'è una gonna, pure quella, va va va, è un vento che la alza, va va va. La tappa finale del gruppo di improvvisati pellegrini del film Basilicata Coast to Coast è Scanzano, che si affaccia sulla costa ionica della regione. Restiamo ancora un poco soli. Meta ideale per rilassarsi in spiaggia può tuttavia diventare il punto di partenza di un tour alla scoperta di località turistiche come Policoro, masserie settecentesche e reperti storici risalenti al periodo della Magna Grecia. Che fai qua? Sono venuta a vedere il concerto. Poi aspetta. Ho telefonato e il telefonino era staccato. Ho chiesto qua in giro, qua nessuno sapeva niente. Mi sono pure spaventata. Mi sono venuta a cercare. Ho cercato dappertutto. Ma si può sapere che è successo? Ci siamo persi. Se strade di campagna su tutto quello. Sono contento che sei venuto. Pensavo che ti eri incazzato. Mi sa che mi incazzavo di più se te ne tornavi a Maratea con me. Era una vita che non ti vedevo portare una cosa fino in fondo, Nicola. E infatti, pure stavolta. Perché dici così? Coi tempi tuoi, eh? Però l'hai fatto. Mo vi manca solo di suonare. Peccato che non c'è nessuno. Ci sono io. Dove sta la giacca mia? Vabbè. Da Maratea a Scanzano Ionico il percorso comprensivo delle tappe indicate conta ben 233 km, due mari, un parco nazionale. E poi montagne, paesaggi rocciosi, laghi e borghi di interesse storico-culturale. Visitiamoli con uno sguardo attento e con il dovuto rispetto e ci accorgeremo di una regione che merita ancora di essere scoperta e apprezzata. L'avimmo preparato. Una festa grande, varri li vine angionet, che pari capodanno, a Cristo non è venuto, una vista vaset, un giamoro messo brutto, a roba sei e teta, ma pur senza protezione, da fene una modetta, e dalle, una mocca c'è che, va, posso la cheta, va. Basolacata, tu che ne sai, l'hai vista mai? Basolacata, insomma, mai. Basolacata, tu che ne sai, l'hai vista mai, basolacata, insomma mai.